Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di prima mattina, buon termine di serata, come amo ripetere sempre, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo anche la mail alla quale mandare le vostre segnalazioni, unabusoalgiorno@radio24.it, e vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, parliamo di coloro i quali sono stati sfollati, brutto termine, che comunque sono stati costretti a lasciare le proprie case terremotate, distrutte, e quindi sono andati, perché ovviamente ha accettato, ad occupare le stanze di alberghi ed hotel, soprattutto lungo la costa. Questo però si presta anche ad alcuni possibili abusi, dei quali noi parliamo con il presidente di Federalberghi, Emilio Schirato. Buongiorno Schirato. Buongiorno. Leggo sulla Repubblica di ieri che sarebbe stato raggiunto un accordo con gli albergatori, io di questo vorrei parlare innanzitutto con lei, per 50 euro per pensione completa in un hotel a 4 stelle, 40 euro in 2 stelle, 45 nei villaggi turistici e nei residence. È la cifra che la Regione Abruzzo darebbe ai proprietari, poi c'è tutto il dettaglio, prima colazione, sistemazione con lenti aggiuntivi, bambini, insomma è un dettaglio inutile ai nostri fini. Quello che le chiedo è innanzitutto, è un accordo che soddisfa le parti? Guardi, no, lei mi fa, deve fare prima un'altra domanda. È vero? E la risposta è no. Ecco, no, no, ma io infatti ho premesso, ho detto che la Repubblica dà questa notizia, ma ovviamente bisogna verificarla, allora, quindi non le risulta. La informo giusto per così, per coordinarci, che come Federalberghi Abruzzo abbiamo diramato un'ANSA che smentisce che questi dati siano i dati veritieri. Ah, la ho verità, capito. Ecco, la verità è che la convenzione non è stata ancora firmata dalla Regione e noi non sappiamo quali saranno i veri prezzi, ma quello che posso dire, lo posso dire, saranno sicuramente più bassi di quelli dichiarati la Repubblica. Ah, ho capito, quindi saranno dei prezzi più bassi, ma questo lo fate per spirito di solidarietà o perché contate così in questo modo di avere un afflusso certo in un periodo morto e quindi comunque tante persone che fanno comunque girare, voglio dire, il fatturato degli alberghi? La ringrazio per la domanda cattiva, ma non raccolgo le provocazioni. No, le provocazioni vanno raccolte, altrimenti... Vanno raccolte. Allora, la verità è questa, che noi siamo andati avanti con grande spirito di solidarietà, sapendo che i prezzi che ci corrisponderà la Regione per tramite del governo centrale saranno dei costi volti solo a coprire i costi, ed in alcuni casi non saranno coperti neanche i costi, perché probabilmente negli alberghi dove abbiamo un livello di qualità più alto della media, non è che cambierà il livello di qualità erogata solo perché sono degli sfollati, tra virgolette. Ecco, non allora sono ospiti, e sono sempre ospiti con la O maiuscola. Benissimo, allora io ovviamente faccio questa premessa: conosco gli abruzzesi e conosco l'Abruzzo, gente straordinaria, regione meravigliosa. Quindi questo qui è un luogo comune, ma questo lo dico perché ovviamente le domande cattive alle quali fa riferimento Schirato servono come paradossi, cioè servono per far emergere i problemi e la loro soluzione. Nulla ovviamente toglie alla capacità estrema degli albergatori d'Abruzzo di essere ospitali, però noi dobbiamo parlare dei possibili abusi. Leggo ad esempio, Schirato, in una agenzia, lei prima citava l'ANSA, ecco, in un'ANSA di 2 giorni fa, che in un hotel provincia di Chieti, in un albergo di Vasto, in asse di Pescara, hanno sequestrato una notevole quantità, diciamo, di cibo avariato, scaduto, in uno stesso hotel in cui venivano ospitati 50 sfollati. Ecco, c'è il rischio che qualche suo collega se ne approfitti, e le chiedo, e in quel caso voi dove sarete? A livello di proposta, perché è chiaro, noi Federalberghi Abruzzo siamo stati richiesti di avanzare una proposta di convenzione. nella nostra proposta di convenzione, proprio perché volevamo dare un taglio estremamente trasparente e alto a livello di professionalità dei nostri albergatori, abbiamo proposto noi alla Protezione Civile di istituire una commissione di controllo della qualità dei servizi realmente erogati, commissione nella quale sempre noi abbiamo proposto che ci sia un rappresentante degli albergatori, un rappresentante della Protezione Civile e un rappresentante degli sfollati, perché riteniamo che questo debba essere il nostro modo di operare. Ecco, questo vi fa onore, perché il massimo della trasparenza vuol dire anche il massimo della tranquillità, no? Lo ripeto spesso, chi non ha nulla da temere apre le proprie porte, giusto? Esatto, dopodiché se, e sottolineo se, ci sono delle mele marce, verranno assolutamente allontanate. E però mi consenta, piacere. Io devo sottolineare questo se, perché in questo momento comunque i NAS stanno analizzando questi cibi, per quanto ne so, e avremo dei risultati ufficiali, per cui mi sembra in questo momento doveroso e sottolinearlo, certo. Sottolineare e dire aspettiamo i dati numerici prima di fare il crucifige. No, ma assolutamente, questo qui è corretto, quindi oggi si sapranno i dati ufficiali. Io non ho fatto il nome dell'albergo, ho detto soltanto che si trova in provincia di Chieti. Visto che lei è così, devo dirlo, anche così aperto alle domande scomode, gliene faccio un'altra. Allora, in redazione il 10 aprile alle 17.14 è giunta una lettera di una persona che ha denunciato presso le nostre redazioni un fatto gravissimo. Che cosa denuncia questa persona, che è un dipendente, un ex dipendente di un albergo a Silvi Marina? Denuncia il fatto che i primi sfollati, i primi alloggiati presso l'albergo dove lui lavorava, sarebbero stati trattati molto male dal personale alberghiero, soprattutto con dei prezzi praticati molto molto elevati, quasi il doppio di quelli che sarebbero stati praticati a delle scolaresche e a delle, dei giovani che fino a qualche giorno fa risiedevano nello stesso albergo di Silvi Marina. Allora, è una, come dire, un'eccezione, una mela marcia? Non ci crede a questa lettera, che ovviamente siamo ben disposti a girarle, Schirato. A lei il giudizio. Primo, sui prezzi non può essere stato detto nulla, perché i prezzi non li hanno decisi gli albergatori, non c'è una discrezionalità da parte degli albergatori di applicazione dei prezzi, è la convenzione che ufficialmente ci dirà cosa ci ridanno, punto. Per cui qualsiasi parola possa essere stata fatta in merito ai prezzi è solo una parola. Mentre per quanto riguarda il discorso dell'accoglienza, io le posso dare la mia testimonianza di albergatore, prima di tutto, certo, e dirle che nella provincia di Pescara, e io in qualità di presidente regionale mi sto spostando sul territorio in continuazione a incontrare queste persone, io vedo gente contentissima, io ho sentito persone che in lacrime ci abbracciano, ci ringraziano. Non dovrei essere io a dirlo, perché sembra quasi un autoincensarsi, però bisogna dare anche, voglio dire, credito alla verità. Gente, ecco, dice, però sì, questo qui va benissimo e io gli ho dato atto subito, però ci sono delle crepe forse nella vostra organizzazione, perché Marco Di Carlo comunque è un rappresentante locale di Federalberghi, quando dico locale mi riferisco a Giulianova, dice attenzione, rischiamo di far fallire la stagione ancor prima che cominci. Allora le chiedo molto così schiettamente e non provocatoriamente, gliela faccio come domanda perché gliela farebbe chiunque, ma insomma, questi sfollati sono un peso oppure la solidarietà vince? Sì, sì, ho già parlato stamattina con Di Carlo, ecco, e ci siamo chiariti sulle sue dichiarazioni su Repubblica. Allora, io volevo dire questo. È bene lanciare un messaggio chiaro, perché c'è il rischio che qualcuno pensi che in Abruzzo ci sono gli alberghi sulla costa requisiti e che quindi la stagione turistica non parte neanche in Abruzzo. Questo è assolutamente falso. Noi stiamo organizzando le cose per poter accogliere i turisti nel nostro Abruzzo a partire da giugno per tutta la stagione. Anzi, io colgo l'occasione per dire: volete aiutare l'Abruzzo? Scegliete l'Abruzzo come destinazione delle vostre vacanze. E questo mi sembra sacrosanto, guardi. L'Abruzzo vuole rialzarsi lavorando. Quindi questo messaggio è chiaro che va contemperato con il fatto che abbiamo queste persone, questi nostri fratelli aquilani, me lo faccia dire, in casa, e nessuno vuole mandarli via. Però questo le dico tecnicamente, perché se no rischiamo di fare solo parole, invece qui ci sono fatti, non ci sono parole. Stiamo mettendo in piedi un sistema di coordinamento territoriale in coacervo anche con le Marche, quindi Marche e Abruzzo, in maniera tale da poter liberare le camere dove c'erano già delle prenotazioni da onorare e spostare eventualmente queste persone verso altri alberghi che invece hanno maggiori disponibilità nei tempi. Per cui non manderemo nessuno sfollato a casa fin tanto che non vorranno andare via loro, e contemporaneamente salveremo la stagione. Benissimo, io sottoscrivo il suo appello. Visitiamo l'Abruzzo, una regione meravigliosa, non c'è rischio per il turismo, verranno accolti tanto gli sfollati quanto i turisti, quindi date retta a Schirato, un pochino anche a me che conosco quella regione ed è meravigliosa, andiamo in vacanza in Abruzzo. Grazie al presidente di Federalberghi Abruzzo Schirato, in regia a Giacomo Spunta, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.